Radio 24 e Fondazione Sigma Tau presentano Medius. In viaggio nel mondo senza fine della scienza con Federico Pedrocchi. Buona serata a tutti, è iniziato agosto e siamo sempre qui con Möbius e le nostre storie di scienza. Quali? Beh, ascoltiamo i titoli di questa puntata. Il nostro cervello è proprio nostro. Molte sue funzioni e attività si modellano a partire dalle esperienze di vita individuale. La neuroetica, in particolare, si interessa di queste diversità soggettive. Godzilla è grande come un grattacielo. E poi c'è il sottomarino che entra nelle vene di un uomo. Ma i corpi degli animali possono avere tutte le dimensioni possibili? Ci sono molte e curiose ragioni che rendono tutto ciò impossibile. Quante sono le molecole che danno gusto al caffè? E che differenza c'è fra schiuma e crema? Scopriamo i segreti fisico-chimici della tazzina. Nell'universo c'è tanta energia oscura. Vero o falso? Facciamo un breve viaggio nelle teorie e nelle idee che circondano questo fenomeno. Chiudere il rubinetto dell'acqua mentre si insaponano i capelli è uno dei consigli utili suggeriti a una nuova professione, il parrucchiere ecologico. Pier Giorgio Di Freddi dice la sua sull'invisibile e ne viene fuori una storia di cani, di filosofi e di numeri immaginari. C'è una scienza che si chiama neuroetica, o meglio, c'è un'area nuova, importante per molti riflessi che può avere, un'area delle neuroscienze che è denominata neuroetica. Recentemente a Monza si è tenuto un convegno su questo tema. Nel convegno si è parlato di molti aspetti che vedremo man mano nelle prossime puntate. Oggi ci soffermiamo su un paio di temi che però sono fondamentali. Il primo è una definizione. Che cos'è la neuroetica? La risposta ci arriva da Raffaella Rumiati, neuroscienziata presso il Centro Sissa di Trieste. Una definizione utile per capire come è organizzato il campo della neuroetica è pensare a questi due filoni. Uno è l'etica delle neuroscienze, l'altro è le neuroscienze dell'etica. Le neuroscienze dell'etica studiano con i mezzi che sono proprio le neuroscienze, problemi che sono invece sempre stati di interesse dei filosofi morali, diciamo. Quindi la persona, tutto quello che riguarda la persona, identità. Ma invece l'etica delle neuroscienze sono i problemi che insorgono nel fare le neuroscienze. E questi sono diversi, molti, dipende da quale tipo di neuroscienza parliamo, per esempio nella pratica, e quindi pensiamo a come comportarsi nel caso in cui, per esempio, in un esperimento di risonanza magnetica funzionale ci troviamo di fronte ad un soggetto, individuo sano, che però invece presenta delle anomalie. Come dobbiamo comportarci? Dobbiamo chiederci, dobbiamo stabilire a priori delle regole che ci permettano di gestire una situazione del genere. Questo è un aspetto cruciale della vicenda. Daniela Perani, della divisione neuroscienze dell'Istituto San Raffaele, ce lo spiega però con maggior dettaglio. La ricerca nell'ambito neurologico e neuroscientifico ha fornito prove sostanziali della possibilità di rivelare modifiche del cervello funzionali che sono tipiche della malattia in fase preclinica, precoce, addirittura 20 anni prima dell'esordio della malattia. Ora, questo non si fa screening di popolazione, ovviamente, con queste metodiche, però si può venire interpellati dal soggetto che pensa di avere un decadimento cognitivo. Questo soggetto non è demente, è una persona normale, impaurita o suggerita dai familiari di agire in questo modo. Ora il medico si trova davanti a una persona che gli chiede un risultato clinico. Clinico sul cervello, incontrovertibile, questa evidenza c'è, se c'è è lì. Allora il mio sollevare il problema etico è perché forse sarebbe meglio che queste persone che non sono dementi firmassero un consenso informato, consapevoli di voler sapere o non sapere eventualmente. Perché questo ha delle implicazioni enormi, cioè una persona che viene da me e dice faccio questo esame e io ritorno così come fosse una lastra del torace, sì, c'è qualcosa, ma la medicina, la terapia, io non ho la terapia ancora. Quindi se una persona ha 70 anni, diciamo, e potrebbe non volerlo sapere e vivere in pace quel che gli resta, se gli resta. Una persona di 50 anni forse vuol sapere, per mettere a posto le sue questioni familiari, sociali, economiche, whatever. Potrebbe non voler sapere altrettanto. Voglio dire, io non posso decidere per lui, questo è il punto. Cioè, oggi le neuroscienze hanno consentito questi esami, questa valutazione del cervello. Ed è nelle linee guida. Fate questo esame perché è supportivo alla diagnosi. Diagnosi precoce, sono anni che urlano diagnosi precoce, ma la controparte terapeutica non c'è. E questo è un problema etico enorme. Un dato molto particolare, ed è un dato che riguarda come funziona la nostra mente, il nostro cervello, assume particolare importanza quando lo guardiamo dal punto di vista della neuroetica. Il dato è il seguente. La vita di una persona, le sue vicissitudini, le esperienze facili e difficili che incontra, le cose che fa formano il suo cervello. È così. Come un ciclista ha delle cosce robuste, così il cervello si può modellare, pure lui. È sempre Daniela Perani che ce lo spiega. La modifica cognitiva, certamente, l'attività cognitiva modifica il cervello, ma modifica addirittura non soltanto la macrostruttura, modifica la microstruttura, modifica la biochimica e modifica l'espressione genica. Partiamo dalle malattie, ad esempio, i disturbi d'ansia su un substrato genetico di un certo tipo, un evento esterno, semplice, cognitivo o episodico della vita può causare una slatentizzazione, quindi una modifica dell'RNA che comincia a codificare per una proteina che, non so, inibisce un sistema di controllo del cervello. Col GABA è stato studiato questo, nei soggetti ansiosi, su chiaramente un set genetico di un certo tipo, l'ambiente può influenzare una modifica del gene, cioè si perde per esempio le caratteristiche inibitorie del sistema sulle aree limbiche, per cui ecco che le aree limbiche destano più attive per fenomeni ambientali che né a me né a lei fanno nessun effetto. È successo un momento scatenante, semplice, un evento della vita che ha modificato. Parliamo invece di a livello cognitivo. Gli studenti che studiano, quindi che apprendono, cosa c'è di più cognitivo che l'attività di apprendere? L'apprendimento modifica i sistemi, macrostrutturalmente e micro. Si sono visti aumenti della connettività ipocampale. L'ipocampo aumenta di volume, semplicemente, aumenta di volume, la cosa persiste nel tempo. L'ipocampo è fondamentale nell'apprendimento, è quello che dà la possibilità ai ricordi di depositarsi. Quindi un esercizio cognitivo modifica la struttura, modifica la connettività ed è misurabile con tecniche, come lei diceva, strutturali o funzionali. L'abituazione, se io divento uso a, quindi sono abituato a, il mio cervello risparmia, perché devo fare così tanto se già io lo so fare e diventa più automatico e meno attivo. Io ho studiato il bilinguismo, per esempio, bilingue ad alta padronanza, stranamente, quando comprendono la lingua attivano meno, quando devo produrre invece posso richiedere più substrato, e chi richiede più substrato? Quelli che sono a bassa padronanza, perché devono reclutare molto di più le strutture del linguaggio per produrre quel poco. Questa è un'evidenza di modifica cognitiva imponente nell'ambito del linguaggio e della memoria, quindi sicuramente c'è. Infine, quando si partecipa ai seminari nei quali si presentano ricerche sul funzionamento della mente, a chi non è strettamente addetto ai lavori, e quindi anche a gente come noi che si occupa di comunicazione scientifica, emerge una strana sensazione, perché da tutte le relazioni si ricava che è in corso un progressivo avvicinamento alla comprensione di come funziona il nostro cervello nel fare le cose più diverse. E poi alcune ricerche specifiche si occupano proprio dei meccanismi di scelta, cioè di come decidiamo qualcosa a partire dalle situazioni in cui ci troviamo. È abbastanza chiaro che questa comprensione della nostra mente deve fare ancora molti passi, però in un convegno di neuroetica, per esempio, si sente parlare di libera volontà di scelta, e cioè di come rapportarsi a scoperte che potranno descrivere, per esempio, le origini di un comportamento asociale. A quel punto che cosa si farà? Si metteranno in prigione le persone ugualmente? Sono orizzonti lontani, ripeto, però globalmente nasce il seguente interrogativo. Se sappiamo tanto di come funziona la nostra mente, come può diventare il nostro rapporto con la realtà? Ci sorprenderemo molto meno? conosceremo già gran parte delle decisioni che potremo prendere in qualunque situazione? Ho fatto queste domande a Dina Roskis, ricercatrice presso il Dartmouth College di Hannover negli Stati Uniti, considerata la fondatrice della neuroetica. So we might understand everything that we would want to know about how our neurons work in order. Dice la Roskis, noi potremmo anche arrivare a sapere tutto quello che fanno i nostri neuroni quando si prendono delle decisioni, ma come soggetto che agisce nella realtà, anche se io credessi di sapere che tutto è chiaro e che sono io necessariamente rivolto a prendere una determinata decisione, dovendo poi agire, che io voglio o no, io devo passare attraverso un processo decisionale che è già di per sé una decisione. Adina Roskis insomma sottolinea che la realtà è fatta di azioni che solo mentre le compio mi inviano le informazioni che le riguardano. Non posso conoscerle prima, magari dopo aver preso una decisione mi sarà più chiaro con le nuove conoscenze come l'ho presa, ma attraverso quell'azione si deve passare. In retrospect, I can tell myself, well, I was bound to make that choice. Retrospettivamente, dice sempre lei, dopo aver scelto, mi potrò dire certo era questa la scelta che potevo fare e questa consapevolezza potrebbe anche cambiare il mio modo di valutare le scelte di altri, per esempio avendo giudizi meno critici sulle loro scelte, perché vuole significare lei si saprà meglio in generale come nascono le scelte nelle persone. In conclusione, per dirla con un esempio, un portiere di calcio va in campo, sa perfettamente che vedrà arrivare della gente verso la sua porta di corsa, che gli tireranno dei palloni a destra e a sinistra, che ci saranno delle punizioni, quindi lui dovrà disporre le barriere e alla via così lui sa tutto quello che accadrà, ma non saprà mai quando accadrà durante la partita, non saprà chi segnerà gol e se li segnerà non saprà se la sua squadra vincerà o perderà. Conoscere le regole non basta per vincere il campionato. Ad agosto il traffico è diverso, è più vacanziero, però c'è, sentiamo cosa sta succedendo sulle nostre strade. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. If I'm in that place and I were running out of time, I'd abandon ship before I grew to dangerous size and use the extra few minutes to get out the quickest way possible on my own. Along the optic nerve to the eye. Wait 30 seconds. Le voci che sentite sono tratte da un famoso film di fantascienza, Viaggio allucinante, un sommergibile con a bordo 4-5 scienziati, riesce ad entrare miniaturizzato spaventosamente nella testa, nel corpo di uno scienziato, un altro scienziato che è andato in coma, ma questa persona ha dei grandi segreti tecnico-scientifici, l'unico modo è riuscire a risolvere l'embolo che ha creato l'ictus, ma non si può fare altro che entrare nella sua testa. Adesso presento subito il mio ospite, Guido Baroni. Buonasera Baroni. Buonasera, buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori. Bioingegnere del Politecnico di Milano. In quella scena noi vediamo uno dei due personaggi, uno dei due comandanti di tutta la missione, uno di quelli che sta fuori, diciamo, dalla missione, quindi non è dentro il sommergibile miniaturizzato, che dice all'altro: se io fossi nel corpo umano e avessi pochissimo tempo a disposizione per uscirne, com'è la loro condizione, la strada più rapida potrebbe essere quella del canale lacrimale. E in effetti così funziona. Si ricorda lei questa scena, Baroni? Mi ricordo benissimo la scena, il film è veramente eccezionale. Il film è veramente bello. C'è allora uno che va a prendere con un vetrino una goccia dall'occhio di questa persona che è nella sala operatoria e effettivamente in quella goccia, poi portata in un altro laboratorio, con una macchina misteriosa e affascinante, si riesce a ingrandire, a far ritornare a dimensione normale le persone. Vogliamo discutere con lei della possibilità che i corpi umani, gli animali, possano diventare piccolissimi o grandissimi. Cominciamo da questo cane, in cui sono diventati piccolissimi. Ma allora, lei dice giustamente fantascienza, il film è di fantascienza, perché in effetti dal punto di vista scientifico una miniaturizzazione così spinta come vediamo rappresentata in questo film comporterebbe delle difficoltà di sopravvivenza vera e propria per gli organismi viventi sottoposti ad un simile processo, senza parlare poi dell'oggetto addirittura, cioè del sommergibile, certo, molto capace, su cui, del veicolo su cui si muovevano queste persone. È indubbio che quando si pensa pensa a una miniaturizzazione del genere, molte funzioni fisiologiche degli organismi viventi superiori, quindi in questo caso degli uomini, sono, in quanto sono legate profondamente alla dimensione, quindi al fattore dimensionale, non potrebbero continuare a sussistere senza dei cambiamenti radicali dal punto di vista metabolico. Per esempio, che cosa potrebbe succedere dal punto di vista del funzionamento? Il principio fisico che sta sotto questa considerazione è molto semplice: se noi pensiamo di rimpicciolire un organismo vivente, riduciamo la sua dimensione lineare, supponiamo l'altezza di un uomo di 100, 1000, 10.000 volte, tutti gli aspetti dimensionali legati alla diminuzione, quindi alla miniaturizzazione della dimensione lineare, che non sono lineare, cioè le aree, le superfici e i volumi, di conseguenza vengono ridotte in maniera non lineare, quindi in maniera quadratica le superfici e in maniera cubica i volumi e quindi le masse, supponendo costante la densità. Quindi significa ad esempio che le superfici di scambio gassose, ad esempio nella respirazione, non potrebbero essere più, non rimarrebbero più adattate alla dimensione nuova lineare che ha raggiunto il nostro organismo vivente. Non respirerebbero più? O nel caso della miniaturizzazione respirerebbero addirittura troppo, addirittura. Nel caso ad esempio della termoregolazione avrebbero bisogno di incrementare in maniera molto molto importante il metabolismo per riuscire a mantenere il calore, perché avrebbero una massa estremamente ridotta in quanto viaggia e legata con un fattore cubico alla diminuzione della dimensione lineare, ma la superficie sarebbe diminuita con un fattore quadratico. Nel caso del film gli omini erano stati ridotti alle dimensioni delle cellule, li vediamo navigare nei vasi sanguigni con le stesse dimensioni, diciamo, di un globulo rosso. Questo squilibrio di termoregolazione è assolutamente insostenibile per un organismo vivente, quindi avremmo bisogno di un metabolismo acceleratissimo che non è ovviamente che non fa parte della nostra natura, certo. Esatto, che non è possibile ottenere da un minuto con l'altro, come era quel processo di miniaturizzazione che vediamo nel film. Passiamo all'opposto. Io credo che tutti, sentendo queste voci giapponesi, abbiano capito che siamo finiti verso Godzilla. Lei conosce Godzilla, ovviamente. Ovviamente, visto e stravisto, altro film bellissimo, altra fantascienza. Comunque. Allora, qui abbiamo invece un organismo che prende i grattacieli per la punta e li sradica dal terreno, quindi è più alto a volte di due volte di grattacieli di 200 piani. Cosa succede qua? Diciamo che il ragionamento di base è lo stesso, quindi il legame che c'è tra dimensione lineare, superfici e volumi è altrettanto applicabile anche in questo caso. Altro esempio è fantascientifico, perché ovviamente un processo di macroscopizzazione del genere, comunque pensare la vita terrestre di un essere come Godzilla così imponente dal punto di vista della massa pone non pochi problemi dal punto di vista ad esempio biomeccanico. Gli sforzi nelle ossa che un essere del genere dovrebbe sopportare non sarebbero assolutamente sostenibili con una fattezza del genere di Godzilla. Quindi. Ecco, ma perché, Baroni, mi scusi, qui non è che, perché uno potrebbe dire, va bene, ma Godzilla ha le sue ossa molto grandi e quindi quelle tengono. Il problema è che la struttura ossea, cioè quel materiale osseo, non potrebbe tenere, dovrebbe avere delle ossa di ferro, di alluminio. Dovrebbe avere delle ossa di ferro, di alluminio, e soprattutto la rapidità dei movimenti di Godzilla, che vediamo appunto strappare grattacieli, muoversi come, diciamo, in maniera molto molto veloce, è assolutamente incompatibile con la struttura dell'essere lì rappresentato. E infatti noi sappiamo perfettamente che Godzilla è un giapponese alto 1,70, pieno di gomma intorno, e questo è il film. Baroni, forse abbiamo rovinato un po' di immaginario fantascientifico, ma invece no, sono sempre belli da vedere e paradossali questi film, per carità. Sono bellissimi da vedere, ma sono proprio belli perché al di fuori insomma, della realtà. Grazie Baroni, buonasera. Grazie a voi, a risentirci. Potrebbe essere uno dei nostri quiz: quanti litri beviamo nel corso di una vita media noi italiani di caffè? Sto parlando di caffè. La risposta è 600 litri. Bene, di caffè vi parla adesso Barbara Gallamotti. Per gli italiani il caffè al bar è diventato un'abitudine nevrotica. Entriamo, prendiamo il caffè in pochissimo tempo e poi via, magari ripetendo il rito più volte al giorno. Comunque, siamo sempre convinti di saper apprezzare e godere il caffè come nessun altro al mondo. L'esperienza in fatto di caffè, però, non è genetica. Insomma, è inutile illudersi, non è scritta nel nostro DNA. Ognuno deve costruirsela, imparando a gustare la tazzina di caffè e imparando ad apprezzare le differenze fra una miscela e l'altra. Indubbiamente, però, essere nati in Italia ci aiuta. Siamo ancora riconosciuti come i massimi estimatori di caffè del pianeta e il Centro Studi Assaggiatori organizza corsi in tutto il mondo. Abbiamo con noi il presidente del centro, Luigi Odello, che ci racconterà un po' di curiosità. Buonasera. Buonasera. In primo luogo, voi avete lanciato un allarme. Gli italiani fanno poca attenzione alla qualità del caffè che bevono. È proprio così? Sostanzialmente sì, perché si lasciano impressionare troppo da quello che vedono e poco da quello che sentono, che invece è la base del piacere. Cerchiamo di capire allora che emozioni, come dice lei, scatena il caffè quando entra nella nostra bocca. Cosa succede? Beh, il caffè ha oltre 700 composti volatili che in qualche modo vanno a impressionare la nostra mucosa olfattiva, che è direttamente collegato al sistema limbico, a questo, chiamiamolo così, centro arcaico della memoria, e di conseguenza è anche il momento in cui si scatenano le emozioni più forti. Il numero delle molecole e il significato che hanno queste molecole per noi umani, logicamente ci può dare un grande piacere o un grande dispiacere. E sono importanti gusto e olfatto, tutti e due. Sono importanti gusto, olfatto e tatto, un po' quello che chi si occupa di PNL, di programmazione neurolinguistica, definisce come il canale cinestesico, no? E sono importanti anche come segnale di pericolo. Per esempio, il caffè che non piace da un punto di vista tattile è quello che è astringente, vale a dire che in qualche modo fa avvertire questa aggressione alla mucosa orale e di conseguenza è un segnale di pericolo per il bevitore. Il caffè buono dal punto di vista tattile è quello che è vellutato, che è sciropposo, che ha un corpo a tutto tondo, tanto che accarezza la mucosa orale. Quindi vede che già il tatto dà un segnale decisamente buono. Questo coinvolgimento del tatto mi fa pensare al ruolo della crema che gli estimatori del caffè considerano fondamentale. C'entra? Sì, moltissimo. C'entra la crema che quando è crema e non schiuma, tanto per, vogliamo ecco, sì. In qualche modo cancellare una leggenda metropolitana che è quella della prova dello zucchero, no? Cioè, caffè è buono quando l'espresso è buono quando lo zucchero galleggia. Non è così? Non è così. Quando galleggia vuol dire che ci sono tante barchette fatte da sostanze legnose, con ogni probabilità non sarà proprio un caffè di qualità quello lì. Però invece, e già si nota, perché in quel caso non si tratta di crema, ma si tratta di schiuma, cioè di un qualcosa che ha delle bollicine piuttosto larghe, sembrano le dune del deserto e via discorrendo. Quando invece è una crema, vale a dire proprio come se fosse panna del latte colorata e soprattutto se ha dei riflessi rossicci, possiamo dire che ci troviamo di fronte ad un composto che ha grosse quantità di molecole grandi che quindi hanno questo effetto proprio accarezzevole sulla mucosa orale. Le molecole grandi sono poi grassi? Non solo, sono grassi, logicamente, che tanto per dirlo agli ascoltatori che non pensino che il caffè è ingrasso, sono sempre quantità molto piccole nel caffè, ma per esempio sono dei macroglucidi, quindi degli zuccheri grandi, e sono delle macroproteine che si formano proprio durante il processo di tostatura attraverso un matrimonio tra quelli che sono i polifenoli e le proteine. Ma sbaglio o proprio i grassi hanno un ruolo nel farci percepire i sapori in maniera più soddisfacente? Sì, soprattutto gli aromi. Grassi sono interessanti perché da una parte mi vanno a isolare la mucosa della lingua e quindi non percepisco più l'amaro violento del caffè. Dall'altra parte i grassi liberano poi al contatto con la saliva, eccetera, quelli che sono stati gli aromi che a loro volta hanno trattenuto durante il processo di tostatura e di maturazione del caffè. Ecco, ma una delle dei grandi contenziosi in fatto di caffè riguarda la differenza fra la qualità robusta e la qualità arabica. Voi che cosa ci dite da tecnici? Ma bisogna riportare le cose un po' nel giusto alveo, nel senso che non bisogna mai generalizzare arabica tutta buona, robusta tutta cattiva, ma tra le due specie c'è sicuramente ci sono delle differenze proprio a livello genetico e quindi anche nell'aroma. Più floreale, più fruttata, più frutta secca nell'arabica, più cenere, più sentori graveolenti, cioè sostanze pesanti, non so se rendono l'idea quello che può essere un odore pesante, un odore non buono. Grazie allora Luigi Adello, buonasera. Buonasera. Una pausa prima di parlare di energia oscura. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. In queste puntate agostane daremo un po' di spazio a chiarire alcuni grandi aspetti controversi della ricerca scientifica. Cercheremo di darvi uno stato dell'arte del problema ogni volta scelto, una sintesi insomma delle opinioni in circolazione su un fenomeno o una serie di fenomeni oppure su certi aspetti teorici. Iniziamo coerentemente con questi presupposti dalla energia oscura. È Maurizio Melis che vi racconta come stanno le cose. When theory and observation come together, quando teoria e osservazioni coincidono, la scienza fa un grande balzo in avanti. I fondamenti della cosmologia moderna furono definiti in quell'incontro. Guardando indietro, mi rendo conto che lì furono poste le basi di tutto il mio lavoro. Molti di voi avranno riconosciuto la voce robotica prodotta artificialmente da un computer che permette a Stephen Hawking, uno dei più grandi fisici del nostro tempo, di esprimersi nonostante l'atrofia muscolare. L'incontro di cui Hawking parla avvenne nel 1931 tra Georges Lemaître, Albert Einstein e Edwin Hubble. A quel tempo Einstein era ormai una star, padre della teoria della relatività e dello spazio-tempo. Hubble, astronomo, aveva invece dimostrato che le nebulose a spirale, così come venivano chiamate a quel tempo, erano in realtà altre galassie distanti milioni di anni luce. E non solo, Hubble aveva dimostrato che queste galassie si allontanavano da noi tanto più velocemente quanto più erano lontane. Un dato che fece subito pensare a un universo in espansione. Ma il catalizzatore di quell'incontro fu Georges Lemaître, un presbitero belga che alcuni anni prima aveva sviluppato una teoria cosmologica basata proprio sulle equazioni di Einstein, la quale non solo prevedeva l'espansione dell'universo, ma pronosticava esattamente anche le osservazioni di Hubble. Non c'erano dubbi, quindi, l'universo era veramente in espansione. Ma Lemaître si era spinto ben oltre, aveva compreso che facendo scorrere le lancette dell'orologio al contrario, l'universo doveva divenire sempre più piccolo, denso e caldo, fino a concentrarsi in un punto che Lemaître chiamava atomo primitivo. Era nata la teoria del Big Bang. A quel tempo gli scienziati erano persuasi che l'universo fosse stazionario e complessivamente in equilibrio. D'altronde, persino oggi, l'idea di un universo nato da una strana singolarità e destinato ad espandersi all'infinito, tutto sommato, non è così facile da digerire. Ma nel frattempo si apriva un altro dibattito. Che cosa sarebbe avvenuto di questo universo in espansione? Sentiamo come andò dalla voce di Patricia Burchard, fisica delle particelle e cosmologa. After the Big Bang, space... Dopo il Big Bang, lo spazio si espanse molto rapidamente. Ma poiché all'interno di questo spazio era presente della materia capace di esercitare una forza gravitazionale, questa tese a rallentare l'espansione. Quindi abbiamo un'espansione che rallenta nel tempo. Ora, durante tutto il secolo scorso ci si è domandati se lo spazio si sarebbe espanso all'infinito, rallentando progressivamente ma senza mai smettere, se si sarebbe espanso rallentando fino a fermarsi, o se a un certo punto avrebbe invertito la marcia e avrebbe cominciato a contrarsi. Poco più di 10 anni fa, due gruppi di astronomi erano impegnati a misurare il tasso di rallentamento dell'universo. Cercavano di capire quanto fosse diminuito il tasso di espansione rispetto a un paio di miliardi di anni fa. Ma venne fuori un dato sorprendente. Lo spazio si sta espandendo più rapidamente adesso che pochi miliardi di anni fa. Quindi in realtà L'espansione dello spazio sta aumentando di velocità e non diminuendo. Era un risultato del tutto inatteso. Non esiste alcun argomento teorico davvero persuasivo che spieghi perché ciò debba accadere. Nessuno aveva previsto una cosa del genere. Era l'esatto contrario di ciò che ci si attendeva. In termini matematici, questa spinta si può esprimere come un'energia, ma si tratta di un tipo di energia completamente diverso da qualunque altra forma conosciuta. Chiamiamo questa energia energia oscura. Dunque un'energia potentissima che pervade tutto lo spazio e ne sta causando l'espansione a un ritmo sempre più elevato. È dunque questo il destino dell'universo? Diluirsi sempre di più fino a divenire una distesa vuota, fredda e in sempre più rapida espansione? E che cos'è questa energia oscura? Siamo sicuri che esista? E in tal caso, da dove viene? Dare un nome a una cosa non significa sapere che cos'è. Secondo molti fisici, oggi l'enigma dell'energia oscura rappresenta l'interrogativo più profondo e carico di implicazioni a cui la fisica teorica si trova di fronte. E la comunità degli scienziati si è quindi lanciata in varie direzioni per tentare di rispondere a questo interrogativo. Le teorie sono numerose e decisamente contrastanti, e nessuna è priva di contraddizioni e punti deboli. Quando Einstein formulò il primo modello cosmologico comprendente la teoria della relatività, venne fuori che l'universo era, per così dire, instabile. Per metterlo tranquillo, Einstein, che credeva nell'universo stazionario, come quasi tutti gli scienziati del suo tempo, aggiunse un termine alle equazioni, la costante cosmologica. Quando Hubble scoprì l'espansione dell'universo, Einstein lo cancellò, definendolo il suo più grande errore. Tuttavia l'energia oscura si comporta proprio come una costante cosmologica e difatti oggi la costante cosmologica e una teoria simile detta quintessenza è considerata la migliore candidata al ruolo di energia oscura. Sfortunatamente cambiare nome a energia oscura e chiamarla costante cosmologica non è che migliori di molto la conoscenza del problema. E infatti l'unico fenomeno fisico che riusciamo a immaginare che potrebbe corrispondere alla costante cosmologica è l'energia del vuoto dovuta alle fluttuazioni quantistiche casuali dello spazio. Però in tal caso dovrebbe essere 120 ordini di grandezza più piccola, insomma un numero così spropositato che non ha davvero senso. Secondo Neil Turok e Paul Steinhardt è tutto l'attuale modello cosmologico da ripensare. Turok, sudafricano, figlio di due esponenti del movimento contro l'apartheid, lo spiega così. C'è un interrogativo che mi fu posto in maniera molto chiara da una mia ex maestra delle scuole primarie in Tanzania. Era una fantastica signora scozzese, con cui sono ancora in contatto e che ora ha un'ottantina d'anni. Una volta stavo cercando di spiegarle il mio lavoro e lei mi interruppe dicendomi: «Senti Neil, lascia stare tutti i dettagli, c'è una sola domanda veramente importante». What banged? Cos'è che è esploso? Tutti parlano del Big Bang. Ma cosa diavolo è stato a esplodere? Aveva ragione lei. È la domanda che abbiamo evitato fino ad ora. La spiegazione standard è che l'universo è saltato fuori dal nulla, pieno di una strana energia, l'energia inflazionaria, che l'ha gonfiato improvvisamente. Ma perché l'universo sia comparso proprio in quello stato è un interrogativo del tutto irrisolto. Dopo aver lavorato per un certo periodo con Stephen Hawking, ho iniziato a esplorare un'altra direzione. Forse il Big Bang non è stato l'inizio. Forse l'universo esisteva prima del Big Bang e il Big Bang è stato invece un violento evento accaduto in un universo preesistente. Questa possibilità è suggerita proprio dalle più recenti teorie che tentano di sintetizzare in un'unica equazione tutte le leggi fisiche. Secondo queste teorie, esistono dimensioni extra per cui in un punto della stanza ci sono delle dimensioni nascoste oltre alle tre che ci sono familiari. E in particolare, nella versione più elegante di questa teoria, c'è una dimensione dalle caratteristiche peculiari. Questa strana dimensione si frappone tra due universi tridimensionali. Immaginate due fogli di carta, paralleli tra loro e molto vicini, solo che questi fogli non sono fogli, ma sono universi tridimensionali detti brane, uno dei quali è il nostro. A una distanza piccolissima, milioni di volte più piccola di un atomo, c'è l'altro universo, l'altro mondo brana. I dettagli del perché l'universo potrebbe essere proprio così vengono fuori dalla matematica e da una serie di osservazioni. Tuttavia mi sembra chiaro che da questa descrizione viene fuori una domanda ben precisa. Che cosa accade se questi due universi si scontrano? Ebbene, fatti i calcoli, quello che viene fuori è del tutto simile al Big Bang. In Universo senza fine, scritto insieme a Paul Stannard, Turok ha spiegato come in questo modello, che nasce per risolvere, come abbiamo detto, l'eccessiva stranezza del classico Big Bang, l'energia oscura rifletterebbe la tensione che si crea fra questi due mondi brana. Dopo la collisione, le due brane rimbalzano, allontanandosi di nuovo e caricandosi di energia oscura. La fine del vecchio universo coincide con l'inizio del nuovo e tutto ricomincia. Ma c'è anche chi fa tutto un altro ragionamento intorno all'enigma dell'energia oscura e si domanda: ma perché, quando non riusciamo a far tornare i conti, introduciamo una nuova forza, una nuova particella oppure una nuova forma di energia? In fondo, tutti i nostri modelli attuali sono frutto di approssimazioni matematiche e ipotesi assunte per semplificare i problemi. Siamo sicuri che la forza di gravità a grandissima distanza si comporti come fa su scala galattica? È vero il principio cosmologico? Cioè l'assunzione secondo cui l'universo, anche fuori dal nostro orizzonte visivo, è uguale a come lo vediamo dentro ed è uniforme? Perché in caso contrario l'energia oscura potrebbe persino non esistere ed essere una specie di allucinazione, di effetto prospettico, dovuto al fatto che noi non vediamo appunto tutto l'universo ma solo una frazione. E potrebbero esistere strutture su grandissima scala e fuori dal nostro raggio di vista che producono questi effetti sul nostro angolo di universo. Una delle posizioni più critiche nei confronti dell'energia oscura chiama in causa la complessità. Luciano Pietronero, direttore dell'Istituto di Sistemi Complessi del CNR, spiega così il punto di vista dei complessisti. Il problema è questo qua. Uno è capace di risolvere le equazioni della cosmologia, cioè quelle cosiddette le soluzioni di Friedman della relatività generale, è capace di risolverle soltanto se fa l'assunzione che l'universo sia omogeneo nella distribuzione di materia. Ora, non c'è nessuna evidenza che sia così, cioè quando uno guarda gli esperimenti, noi passiamo dal sistema solare, poi passiamo alla galassia e poi passiamo alle distribuzioni delle galassie. Ci si aspetta sempre che un giorno queste distribuzioni, guardando più lontano, diventino omogenee. Al contrario, gli esperimenti negli ultimi 15 anni hanno mostrato che più si va lontano, più ci sono strutture, superstrutture, grandissimi filamenti, eccetera, eccetera, ormai grandi quasi come una frazione dell'intero universo. Questa osservazione che noi abbiamo quantificato, essendo esperti, diciamo, di cose complesse, di correlazioni frattali, eccetera, noi abbiamo quantificato e la nostra conclusione è che non c'è nessuna evidenza che si raggiunga questa benedetta auspicata omogeneità. Può essere, ci sono buone evidenze, che l'introduzione di questo elemento reale della disomogeneità e quindi della struttura complessa dell'universo sia quello che permette di eliminare questo artificio dell'energia oscura. Dunque, artificio o energia destinata a dominare la futura evoluzione dell'universo? Beh, insomma, c'è una bella differenza. D'altronde, ai confini più estremi della ricerca fondamentale vi è spesso una grande incertezza. E allora concludiamo il nostro viaggio intorno al mistero dell'energia oscura con una riflessione di Karl Popper, uno dei padri della moderna filosofia della scienza, che una volta ha detto: ogni qualvolta una teoria ti sembra l'unica possibile, prendilo come un segno che non hai capito né la teoria né il problema che si intendeva risolvere. Il traffico ora, strade in diretta. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Se arrivano nei negozi dei parrucchieri, da uomo o da donna che siano, allora è fatta. Sto parlando dei principi di sostenibilità ambientale. Chiara Albicocco vi introduce al tema il parrucchiere ecologico. Federparchi, la Federazione Italiana dei Parchi e delle Riserve Naturali, lancia una nuova professione. Guardaparchi tecnologici? No. Guardie forestali interstellari? Neanche questo. Boscaioli internauti? No, proprio non ci siamo. Niente di tutto questo. Federparchi annuncia la nascita del parrucchiere ecologico. Non chiedetemi altro perché non so dirvi molto di più, ma ci svela l'arcano di questo strano connubio il direttore di Federparchi, Luigi Bertone. Buonasera, direttore. Buonasera a voi. Direi che ci deve proprio dare una spiegazione. Come nasce questa iniziativa di Federparchi di lanciare il parrucchiere ecologico? Beh, nasce da una constatazione e da un'offerta. La constatazione è che in Italia funzionano circa 150.000 saloni di parrucchiere e sono un fattore di notevole consumo di energia e di notevole inquinamento, a volte spreco di risorse come l'acqua e altri elementi. L'offerta, l'occasione è stata quella di una società, L'Oréal Professionnel, che ha rapporti con gli operatori di questi saloni e ha deciso di, in accordo con noi, di occuparsi del problema. Quindi qui nasce che cosa? Intanto dei suggerimenti per trasformare un parrucchiere tradizionale in uno ecologico. Esatto, nasce un progetto complesso che è fatto di questo che diceva lei, cioè di buone pratiche suggerite ai lavoratori, agli operatori, ai titolari di questi saloni. Sono 10 consigli utili, semplici, efficaci per risparmiare acqua, energia e inquinamento al nostro ambiente. Ci fa qualche esempio, direttore? O per esempio dotarsi di piccoli elettrodomestici, phon, che consumano molto e se sono ad alta efficienza energetica possono consumare molto meno. Poi io leggo dalle vostre regole: chiudere il rubinetto mentre insaponate i capelli della cliente. Sì, abbiamo fatto un calcolo che se si osservassero queste regole potremmo risparmiare quasi 400.000 litri di acqua all'anno e molti kilowattora di energia elettrica, potremmo contenere le emissioni di CO2 e così via. Sì, io ho fatto un breve calcolo, mi sono informata: un salone da parrucchiere medio con un afflusso di circa 20-25 clienti al giorno, considerando che una messa in piega dura all'incirca 25 minuti, ecco, si consumano addirittura 6.200 kilowatt all'anno, quindi questa potrebbe essere tutta una parte. Vedo che lei è informatissima e siamo partiti appunto da questo calcolo semplice: moltiplichi tutto ciò per 150.000 e avrà idea di quanto si può incidere in fatto di emissioni CO2 contenute con dei semplici accorgimenti, insomma. Ecco, e poi ci diceva che c'è una seconda parte di questo progetto. C'è una seconda parte che è la compensazione. Comunque i saloni energia ne consumano e quindi comunque c'è delle emissioni di CO2 da compensare. Con il sostegno di L'Oréal, alcuni di questi saloni, saranno 105, diventeranno anche saloni a impatto zero. Le loro emissioni saranno compensate con la piantumazione attraverso l'altro nostro progetto che si chiama Parchi per Kyoto, la piantumazione di parchi in alcune zone particolari del paese. Quindi per compensare le emissioni di CO2 vengono piantate delle piante. E ci sono poi anche altre cose, per esempio la fornitura di lampade a basso consumo energetico, cose che si fanno normalmente nelle case ormai. Le persone più responsabili, più consapevoli lo fanno, magari sostenute da qualche amministrazione pubblica, dall'Enel o da altri fornitori di energia elettrica, applicate in questo caso ad un settore produttivo, possiamo chiamarlo così, e comunque economico, di grande impatto e di grande rilevanza. Chiarissimo. Ecco, e poi voi avete pensato anche ad una serie di eventi proprio nei vostri parchi, nei parchi italiani, per formare questi aspiranti parrucchieri ecologici. Terzo elemento del progetto, esatto, sempre questo gestito da L'Oréal, che rivolge agli utilizzatori dei propri prodotti un'attività formativa per spiegare come si può risparmiare energia, come si può inquinare di meno. Credo che diranno anche quali prodotti si possono usare per essere più naturali, ma certo, su questo sono meno preparato. Sì. E anche per comprendere, perché questi corsi si faranno nei parchi italiani, stando dentro ad un parco, quali sono le conseguenze di un comportamento virtuoso, quali possono essere quindi i benefici per la natura che ringrazia. Ecco, ora c'è molto più chiaro perché Federparchi ha deciso di promuovere questa iniziativa. Sì, mi rendo conto che può sembrare un po' strano, però la nostra filosofia forse è eccessivo chiamarla così. Insomma, il nostro obiettivo è quello di utilizzare ogni occasione per indurre comportamenti migliori rispetto a quelli attuali, più responsabili. E questa era una bella occasione. Va bene, se qualche parrucchiere tradizionale volesse diventare ecologico, ci sta ascoltando, può trovare tutti i consigli utili per diventarlo sul vostro sito www.parks.it. E poi, se volesse partecipare anche ai corsi di formazione all'interno dei parchi, anche lì può trovare tutte le informazioni. Grazie direttore e complimenti per questa iniziativa. A Milano si tiene da 9 anni una rassegna culturale sempre ben progettata, ideata e curata da Elisabetta Sgarbi, si chiama Milanesiana. La rassegna ha ogni volta un titolo ispiratore, quest'anno era L'Invisibile. Fra i tanti appuntamenti che riguardano un arco culturale completo c'è ovviamente anche uno spazio dedicato alla scienza. Fra gli ospiti quest'anno c'era Pier Giorgio Di Fredi, ormai noto personaggio, logico matematico, divulgatore, polemista di rango in molti dei temi di attualità sociale che investono la scienza. Ha tenuto una breve conferenza sull'invisibile che lui ha collegato anche all'immaginario. Sentiamolo in questa breve sintesi che non ignora i tratti polemici più noti di Di Fredi. Io parlerò di effetti visibili, di cause invisibili. Racconta, comincerò un po' da lontano, vabbè, racconta Charles Darwin nell'Origine dell'uomo che un giorno afoso e caldo il suo cane giaceva sul prato. Ma ringhiava e abbaiava ogni volta che un parasole veniva agitato da una leggera brezza. Secondo il naturalista, perché ragionava automaticamente e inconsciamente che un movimento senza apparente causa indicava la presenza di qualche strano agente vivente. Il cane di Darwin aveva dunque commesso un errore categoriale, scambiando una causa inanimata, come il vento, per una causa animata, come un intruso. La filosofia del cane si mantiene comunque all'interno del reale, limitandosi a confonderne due specie. Un errore peggiore lo commette la teologia del prete, non poteva mancare naturalmente, in nessuna delle mie interventi, che a proposito dei sacramenti compie addirittura un salto dal reale all'immaginario e in una tradizione che spazia da Agostino, la città di Dio, fino al catechismo del Concilio di Trento, vedete come sono aggiornato, ne parla come di segni o forme visibili della grazia invisibile, quando non addirittura di cause visibili della, grazia invisibile, come nella Summa Theologiae di Tommaso d'Aquino. Ciò che accomuna il cane e il teologo è una superstizione nel senso letterale di sovrastruttura, che sovrappone indebitamente alla realtà fisica un'illusione metafisica e la ipostatizza di nuovo nel senso letterale di reificarla, di renderla materiale, materializzarla. E il processo di trasformazione delle idee in cose ha contagiato non soltanto i canili e le chiese, mi scuso per il paragone, ma anche i dipartimenti di filosofia, qui non mi scuso, dell'intero mondo, in una psicosi collettiva che pretende sistematicamente di mettere nell'ambito dell'esistente le fantasie partorite dall'immaginario e di scambiare la letteratura per storia, naturale o sociale che sia. A dare evidenti segni di squilibrio metafisico o di mancanza del principio di realtà fisica non sono comunque soltanto gli addetti ai lavori, ma anche coloro che vengono comunemente definiti come gente normale. Ed è sicuramente un segno visibile del tempo virtuale in cui viviamo che l'aggettivo normale venga oggi attribuito agli spettatori del reality, per esempio, ai quali basta il nome in inglese per credere che ciò che guardano nel teleschermo sia reale e interessante. La tentazione di pensare che dietro alle parole si celino sempre le cose è però talmente forte e ubiqua da suggerire che essa possa addirittura fornire un vantaggio evolutivo a coloro che la posseggono, esattamente come gli artigli o le zanne delle belve le rendono più adatte alla lotta per la vita. Il che non rende ovviamente meno feroci le belve o più vere le illusioni, ma aiuta a capire come mai la tendenza metafisica abbia potuto insinuarsi dovunque, persino, e qui arrivo al dunque finalmente, nella matematica, che pure è la disciplina più immune dagli errori e dalle illusioni grazie all'antidoto costituito dal suo ferreo metodo di dimostrazione. Ma Di Fredi si è anche ricordato che pure nella matematica si parla di cose che sembrano essere immaginarie, invisibili, irrazionali. Vedrete che poi non è così. Comunque sentiamolo mentre racconta quando apparve il primo irrazionale nella matematica. Probabilmente il primo irrazionale a essere scoperto probabilmente lo sapete, non posso fare domande purtroppo benché mi pruda la lingua, ma comunque fu la, possiamo dirlo tutti in coro, anche perché è scritto qua, la cosiddetta sezione aurea, mi piace questo coro in cui sono solo a cantare, che tanto ha fatto parlare e straparlare di sé per la sua ubiquità nella natura e nell'arte. In matematica la si ritrova come rapporto fra la diagonale e il lato del pentagono regolare. Forse meno elementare, ma è sicuramente più noto come esempio di irrazionale, è la radice quadrata di 2, che misura invece in questo caso il rapporto fra la diagonale e il lato del quadrato. Il fatto che la sezione aurea o la radice di 2 non fossero esprimibili come frazioni, cioè come rapporti di numeri interi, mise in crisi la scuola pitagorica che sulla commensurabilità universale aveva fondato la propria filosofia del tutto è numero razionale, poi cade numero, tutto è razionale. E costrinse i greci da un lato a bandire ufficialmente gli irrazionali e dall'altro a fare salti mortali per poterne parlare ufficiosamente attraverso le loro approssimazioni nella maniera indicata da Eudosso e sviluppata da Euclide nel decimo libro degli elementi, che non a caso è passata alla storia come la croce dei matematici. Ora, l'equivoco si basava appunto sul credere che gli irrazionali ci fossero, esistessero misteriosamente in un mondo ideale al di là di quello naturale degli interi. Ma nel 1858 Richard Dedekind mostrò come si possa identificare un irrazionale con gli insiemi delle sue approssimazioni razionali. Ad esempio, credo che tutti aspettiate con ansia come si faccia a definire la radice di 2, no? Si identifica la radice di 2 con le frazioni il cui quadrato è minore di 2 da una parte e quelle il cui quadrato è maggiore di 2 dall'altra. E questa è una maniera tipicamente decostruzionista. E cosa succede? Le cause irrazionali, la radice 2, scompaiono e rimangono soltanto i loro effetti razionali, le approssimazioni. E allora qual è la conclusione di tutto questo? Beh, che i matematici hanno imparato a contenere e arginare le proprie tentazioni metafisiche, mostrando che con un po' di buona volontà intellettuale è possibile decostruire e smantellare l'irrazionale, l'immaginario e l'ideale. Ora, il loro esempio addita una via che sicuramente non i cani, ma forse i filosofi e i teologi potrebbero seguire, e il giorno in cui essi riconosceranno e ammetteranno l'irrealtà e l'illusorietà della metafisica sarà un grande momento per l'umanità, anche se arriverà comunque con un grande ritardo per la storia. Pau, pau. Siamo in chiusura. Vi ricordo che da lunedì Moebius, come ogni agosto, va in onda ogni giorno alle 16 per tutto il mese, da lunedì al venerdì. E molte altre notizie e approfondimenti su tutto quanto vi raccontiamo in onda le trovate sul nostro sito www.moebiusonline.eu. Buona serata a tutti e a tutte. Radio 24 e Fondazione Sigma Tau vi hanno presentato Moebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza.